Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Afghanistan, Berlusconi, mettere a punto una transition strategy. A Natale a casa, 500 militari, la russa, non cambiano le regole di ingaggio. Le inchieste di Bari, fermato l'imprenditore Tarantini, il procuratore poteva fuggire. Industria, riparte il fatturato, primo segnale positivo da 13 mesi. Mai più in vasca la nuotatrice francese, Manadou annuncia l'addio. Tennis per la Davis, Italia contro Federer. Buona giornata da Alessio Maurizi. Rientreranno dunque in Italia domenica le salme dei sei militari morti ieri in Afghanistan. Lunedì ci saranno i funerali di Stato. Intanto il ministro degli esteri, Frattini, ha annunciato il rientro dei 500 soldati che erano stati inviati in occasione delle elezioni di agosto. E a proposito del tipo di missione, il ministro della difesa, la russa, ha spiegato che le regole di ingaggio non cambieranno. Oggi è intervenuto anche il presidente del Consiglio, Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Partiamo dalle notizie del Consiglio dei Ministri. Il governo ha fissato per lunedì i funerali di Stato per le sei vittime di Kabul. Si terranno a Roma nella Basilica di San Paolo, fuori le mura. Sempre per lunedì è stato proclamato il lutto nazionale con un minuto di silenzio nelle scuole e negli uffici pubblici. I feretri dei nostri militari caduti nell'imboscata arriveranno a Roma all'aeroporto di Ciampino domenica mattina e saranno accolti dal Presidente della Repubblica, Napolitano. Ma veniamo al dibattito legato alla permanenza o meno dei militari italiani in Afghanistan. Su questo tema è intervenuto proprio il Presidente del Consiglio Berlusconi, che questa mattina ha visitato il sagrario dell'esercito. Il premier ha parlato di transition strategy. Sentiamo. Noi siamo, come gli altri alleati, impegnati nel difendere la democrazia che si sta affermando in questo paese, che comunque è ancora molto lontano dall'essere un paese civile, un paese moderno. Abbiamo poco fa parlato anche di ciò che gli italiani in particolare possono fare, per esempio nella città di Herat, che è una città molto più avanti nella direzione della modernità rispetto a Kabul. Ho detto che per esempio un'idea potrebbe essere quella di asfaltare le strade, perché lì sono discariche continue, questo dà proprio il senso dell'abbandono del Medioevo. E quindi adesso cercheremo con gli altri alleati di fare il punto della situazione. Noi avevamo già un progetto, sempre condiviso con gli alleati, di riportare a casa quei soldati che abbiamo mandato in occasione del periodo elettorale, e poi bisognerà mettere a punto con tutti gli alleati una transition strategy per caricare di maggiori responsabilità il nuovo governo, per mettere a punto il numero di soldati afghani che sono già stati addestrati, per mettere a punto il numero di componenti delle forze dell'ordine che anch'essi hanno raggiunto la sufficiente professionalità, e fare un programma che veda di pari passo aumentare la capacità del governo Karzai di prendere in mano la situazione della sicurezza del paese e contestualmente, naturalmente, consentire alle truppe alleate di diminuire gli organici. Questa dunque è la posizione del Presidente del Consiglio Berlusconi. Da sottolineare le parole del Ministro della Difesa, la russa, non cambiano le regole di ingaggio, e ipotizzare in queste ore un exit strategy dell'Afghanistan sull'onda dell'emotività, ha detto la russa, può essere inteso da alcuni come debolezza e vantaggio del terrorismo e può portare ad una cresciuta violenza contro i nostri soldati. Il Ministro ha comunque ipotizzato il rientro graduale di 500 uomini inviati in Afghanistan per le elezioni. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Dunque, se qualche distinzione c'è all'interno della maggioranza sulla uscita possibile dall'Afghanistan, anche l'opposizione si divide sulla exit strategy. L'ipotesi di un disimpegno dall'Afghanistan alimenta il dibattito politico anche nell'opposizione, che si confronta sull'opportunità di pianificare una exit strategy. Un ritiro della comunità internazionale oggi sarebbe una catastrofe, sostiene in un'intervista l'ex ministro degli esteri D'Alema. L'esponente del PD sottolinea invece la necessità di nuove iniziative politiche che affianchino l'azione militare e suggerisce di convocare una conferenza internazionale di pace allargata ai paesi dell'area, ma anche l'invio di una personalità politica internazionale di prestigio che affianchi Karzai come rappresentante delle Nazioni Unite. Anche per Casini, leader dell'UDC, è una pessima politica dire oggi tutti a casa. L'Italia dei Valori insiste però nel chiedere un ritiro del nostro contingente, e a chiederlo è anche fuori dal Parlamento la sinistra radicale, perché in Afghanistan l'intervento militare non ha risolto il problema ma ha rafforzato i talebani, sostiene oggi il segretario di Rifondazione Ferrero. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sulla attuale strategia militare in Afghanistan, che prevede una maggiore presenza di militari sparsi sul territorio, sentiamo il generale Carlo Jean, intervenuto questa mattina a 9 in punto. La riduzione degli attacchi aerei, la riduzione dell'appoggio aereo automaticamente comporta un maggiore impiego di truppe a piedi e la protezione della popolazione richiede la dispersione di questa truppa, di queste truppe nei villaggi e così via. Disperdendosi diventano degli obiettivi più facili da attaccare, anche perché poi i movimenti per strada aumentano e non sono più massicci, non sono su diversi itinerari e di conseguenza si creano degli obiettivi di opportunità, soprattutto per attentatori suicidi, che sono per loro sono una mano, diciamo, chiamiamole pure una mano dal cielo. L'attentatore suicida ha una caratteristica tecnico-tattica particolare che è estremamente flessibile, è l'arma più flessibile esistente al mondo. Se manca un bersaglio, ne scegli un altro e si getta su quel bersaglio. Molto velocemente quello che è capitato al contingente italiano lì a Kabul, non credo che gli italiani fossero gli obiettivi dell'attacco, soprattutto di un attacco di 150 kg di tritolo o di altro esplosivo. E poco fa è intervenuto anche il capo dello Stato Giorgio Napolitano, che ha detto: non credo ci sia nulla da rivedere nella missione italiana in Afghanistan. E questo era anche il tema del nostro sondaggio di oggi su Radio 24. Vale la pena restare nel paese e tentare di riportare la pace? Queste le vostre risposte. Si discute da tempo su una possibile exit strategy dall'Afghanistan. Era questo il senso del nostro sondaggio odierno. Vi chiedevamo: considerate persa la battaglia per portare la democrazia in quel paese? Gli ascoltatori si sono divisi. Prevalgono i sì, è una battaglia sostanzialmente perduta, ma solo con il 60%. Una posizione non condivisa dal generale Fabio Mini, che ha una lunga esperienza di comando in missioni estere. No, assolutamente. Anzi, probabilmente questo è anche un segno di come bisogna rimuoversi, bisogna riformulare le strategie. La democrazia è fondamentale e non è affatto perduta, ci sono forze in Afghanistan che possono risollevarla. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24 torna lunedì mattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora diamo uno sguardo a come nei mezzi di informazione, stampa e TV arabi viene trattata la notizia dell'attentato di ieri. Data per scontata l'esultanza dei siti islamici, l'eco dell'attentato che ha ucciso 6 parà della folgore a Kabul è decisamente scarsa sui media arabi di oggi. Ad eccezione di Al Jazeera, che ieri ha dedicato l'evento all'apertura di tutti i suoi notiziari, i principali quotidiani di stamane rilegano la notizia nelle pagine interne. Maggiore attenzione sulla stampa libanese. Forse per la presenza di forze internazionali anche nel loro paese, i giornali locali si interrogano su eventuali decisioni di Roma di ritirare la propria missione dal paese asiatico. Berlusconi vuole ritirarsi dall'Afghanistan al più presto possibile, titola Safir, mentre Annahar, quotidiano vicino alla maggioranza filo occidentale, mette l'accento sulle contraddizioni emerse in seno al governo italiano. Mentre il ministro della difesa afferma che la missione continuerà, parole del giornale, e il premier italiano da Bruxelles manda a dire che è meglio per tutti lasciare presto l'Afghanistan. Adif Atahali, GR24, Il Sole 24 Ore. E torna in primo piano oggi anche l'Iran. Violenti scontri con le forze di sicurezza sono scoppiati oggi nel centro di Teheran, dove diverse decine di migliaia di manifestanti sono scesi in strada per rinnovare le proteste contro l'esito delle discusse elezioni presidenziali del 12 giugno. Negli scontri è rimasto coinvolto anche l'ex presidente Mohammed Khatami. I dimostranti hanno approfittato delle celebrazioni ufficiali che si svolgono ogni anno nella giornata del Quds, cioè di Gerusalemme, come segno di solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Le guerre in Iraq e Afghanistan, ha detto il presidente Ahmadinejad, sono state istigate dai sionisti. Alberto Negri. Si sapeva già che per la stanza dedicata dal COS, cioè alle manifestazioni su Gerusalemme, quindi contro Israele, erano già stati presi degli accordi tra i leader dell'opposizione per convocare delle manifestazioni. E questa è stata l'occasione appunto per riportare in piazza il movimento dell'Onda Verde, con due obiettivi: quello di mostrare che Ahmadinejad non ha ancora totalmente il controllo della situazione, e poi proprio perché lo stesso presidente iraniano si sta per recare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e quindi queste manifestazioni vogliono dimostrare che il consenso intorno al regime è tutt'altro che consolidato. E oggi il quadro turbolento del Medio Oriente si completa con il grave attentato avvenuto in Pakistan. Un minibus carico di esplosivo guidato da un uomo è piombato nel cuore del mercato di Ustrazai nel nord-ovest del Pakistan. Nell'attentato è stato sventrato un hotel, sono saltati in aria negozi e automobili, sono morte 22 persone, ma è inutile dire che il numero potrebbe salire, e più di 60 sono rimaste gravemente ferite. I soccorritori cercano ancora tra le macerie e i superstiti. In aiuto alle squadre di soccorso e alla polizia è arrivato anche l'esercito pakistano. Il villaggio a maggioranza sciita è stato già teatro di episodi di violenza negli ultimi anni, ma la situazione è nettamente peggiorata da quando ai vertici dei talebani è arrivato Hakimullah Meshud, un uomo che il generale Talat Massoud, a capo dell'esercito pakistano, ha definito molto pericoloso. He will be far more aggressive in the initial stages to prove his leadership. He can be a great danger. Massoud, in un'intervista alla BBC che state sentendo, spiega che in questa fase iniziale il nuovo capo dei talibani, Hakimullah Meshud, sarà molto aggressivo. Tutto questo per dimostrare la sua nuova leadership, la sua forza, e per fare questo prenderà di mira le truppe britanniche e compierà attentati contro la stessa popolazione pakistana. L'attentato di oggi conferma dunque le parole del generale Massoud, ma anche i timori espressi dall'intelligence pakistana, che giorni fa aveva avvertito della possibilità di attentati ed esplosioni in città chiave del paese alla vigilia dell'ultimo venerdì di Ramadan. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E anche il cinema si è confrontato più volte con il teatro di guerra afghano. Sentiamo come. Il disagio dei soldati nelle operazioni militari e nelle missioni di pace. Un tempo era il Vietnam a essere raccontato al cinema, ora è soprattutto l'Iraq, ma anche l'Afghanistan. Lei vuole vincere la guerra al terrorismo? Sì o no? È questo il quesito fondamentale dei nostri tempi. Sì o no? Leoni Peragnelli, 2007. When I became an artist, I decided that Quando ho deciso di diventare un artista, ho deciso di mettere nei miei film l'amore per il mio paese. Così Robert Redford ha spiegato la sua decisione di girare Leoni Peragnelli, la storia di due ragazzi ispirati dai discorsi di un professore universitario che partono per l'Afghanistan, ma muoiono durante la prima missione sul campo. Un film di 2 anni fa, ma le cose non sono cambiate, nemmeno con la nuova amministrazione americana, che ancora non è stata raccontata al cinema. Forse ci vorrebbe un nuovo Taxi to The Dark Side, premio Oscar 2008 al miglior documentario. Il 5 dicembre 2002, Dilawar, un giovane tassista afghano, venne portato a Bagram. 5 giorni dopo il suo arrivo, era morto. Prendendo spunto dall'indagine giornalistica di Tim Golden del New York Times, un'inchiesta che porta fino a Guantanamo e ai metodi di interrogatorio della CIA negli anni 50, 60 e 70. Addirittura il nuovo 007 potrebbe arrivare in Afghanistan, con James Bond a indagare sulla produzione di droga e i finanziamenti sulle truppe ribelli nella provincia di Helmand. Certo, un film d'azione e di finzione, ma potrebbe comunque accendere di nuovo i riflettori su quelle terre. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:17, nella prima parte di GR24 ci siamo occupati soprattutto di Afghanistan. Rientreranno domenica all'esame dei 6 militari morti ieri, lunedì, i funerali di Stato. Il ministro degli esteri Frattini ha annunciato il rientro dei primi 500 soldati che erano stati inviati in occasione delle elezioni di agosto, notizia confermata anche da Berlusconi, che parla di una transition strategy, mentre per il ministro della difesa La Russa le regole di ingaggio non cambiano. Adesso le altre notizie. E la Guardia di Finanza ha sottoposto poco fa a fermo l'imprenditore barese Giampaolo Tarantini, indagato nell'ambito delle inchieste sulla sanità in Puglia e anche per un giro di escort che sarebbero state portate a delle feste anche nelle residenze del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Gli aggiornamenti in diretta con Raffaella Calandra. poteva scappare e per questo lo hanno fermato. L'uomo chiave delle inchieste baresi su escort, droga, ma anche sanità in Puglia, da questa mattina non è più libero. Gianpaolo Tarantini è stato arrestato dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Bari. Le accuse che hanno portato a questa accelerazione dopo settimane di interrogatori con i magistrati e di polemiche per la pubblicazione dei verbali riguardano il fascicolo sugli stupefacenti. Secondo l'accusa, infatti, Tarantini aveva con sé droga ai fini di spaccio e per questo, ipotizzando non solo una reiterazione del reato ma anche un forte pericolo di inquinamento delle prove e di fuga, il PM Giuseppe Scelsi e il procuratore Antonio Laudati hanno voluto fermarlo. È stato lo stesso capo della procura barese a spiegare le ragioni di questo provvedimento cautelare dopo che per giorni Tarantini ha risposto alle domande dei PM raccontando delle 30 ragazze portate anche alle feste del Premier, delle cene e dei rapporti con personaggi politici di opposto orientamento, ammettendo tra l'altro di aver custodito nella cassaforte di casa in Sardegna della droga. Le forze di polizia, fa sapere il procuratore Laudati, ci hanno segnalato del pericolo di fuga e Tarantini è stato fermato all'aeroporto. Dopo le polemiche per la pubblicazione dei suoi verbali, nei giorni scorsi l'imprenditore era andato in procura con il suo avvocato a depositare un esposto denunciando anche un possibile pericolo per la sua vita. E per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra. Ci sono novità anche per quanto riguarda le scalate bancarie e l'inchiesta Unipol, perché ci sarà un processo per l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, così come per gli ex vertici di Unipol Giovanni Consorte, Ivano Sacchetti, l'ex numero uno dell'allora Popolare di Lodi Giampiero Fiorani, ma anche per la stessa compagnia assicuratrice di via Stalingrado come per la Deutsche Bank. Infatti il giudice milanese per l'udienza preliminare Luigi Varanelli ha disposto il rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta per aggiotaggio. Sono sorpreso e stupito, ha detto l'ex numero uno di Unipol Consorte. Tra i prosciolti invece le banche Nomura, Credit Suisse e l'imprenditore Marcellino Gavio. Si è avvalso oggi della facoltà di non rispondere El Khattaoui Dafani, il marocchino in carcere, con l'accusa di avere ucciso la figlia Sana di 18 anni, accoltellata martedì sera a Montereale Valcellina. L'uomo è comparso stamani davanti al GIP nell'udienza di convalida del fermo al quale lo hanno sottoposto i carabinieri con l'accusa di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dal rapporto di parentela e anche per il tentativo di omicidio nei confronti del fidanzato della figlia. E stranieri eppure italiani, è questa la situazione che viveva anche Sana Dafani. Questi sono i figli degli immigrati che in Italia si sentono occidentali e nello stesso tempo sono connazionali a metà. Né carne né pesce, probabilmente uovo. Si definisce così Lucia Gebegiorges, di origine etiope, figlia di immigrati. Lei si occupa di comunicazione. Il suo accento romano non la tradisce. Lucia è italiana, ma anche una rappresentante di Rete G2, associazione nazionale fondata da figli di immigrati rifugiati in Italia, che hanno creato un network per condividere le loro storie. Figli che hanno il compito, non sempre facile, di fare da ponte con le loro famiglie. Fare parte di una seconda generazione vuol dire essere dei figli di immigrati, vivere in parte la realtà dei genitori, ma più che altro riflessa, e essere perfettamente inseriti anche nel territorio italiano, ma conflitto sia in età adolescenziale ci può essere, così come c'è poi in qualsiasi normale conflitto tra genitori e figli. Di Ina Salem e Sana Dafani, uccise perché amavano due italiani, Lucia dice: c'è sicuramente una difficoltà di comunicazione all'interno, insomma, di queste famiglie, cioè un tradizionalismo molto forte che magari non sempre permette di poter vedere il figlio come poi in realtà il figlio si vede. Laddove si è visto che ci possono essere delle difficoltà tra italiani e stranieri, parla spesso di matrimoni misti, questo non, di solito non riguarda le seconde generazioni, perché le seconde generazioni in realtà hanno molte cose in comune, tutto sostanzialmente, con i coetanei italiani. Giovanna Boglietti, GR24, Il Sole 24 Ore. Buone notizie per l'economia. Fatturato e ordinativi dell'industria tornano in area positiva a luglio grazie soprattutto alle vendite all'estero. Secondo i dati dell'Istat, il fatturato è cresciuto a luglio dello 0,7% rispetto al mese precedente, mentre rispetto ad un anno prima continua ad essere molto negativo il saldo, -21,7%. A riprendere è stato soprattutto il mercato estero. E poi ci sono anche gli ordini, dunque per quanto riguarda le prospettive, che sono cresciuti del 3,2% a giugno rispetto al mese precedente, e grazie ad un calo del 2% degli ordinativi nazionali, invece una crescita anche in questo caso di quelli esteri del 15,6%. E sulle prospettive economiche, soprattutto del consumo, dei consumi in Italia, si è concentrato oggi il forum di Confcommercio. C'era per noi Silva Menetto. Buongiorno Silva. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. La ripresa qui è stata detta a Venezia a portata di mano, ma bisognerà aspettare fino alla fine del 2012 perché il tasso di consumi pro capite torni almeno ai livelli del pre-crisi. Comunque si parla di indici pari a quelli del 2000, vale a dire che avremo fatto un passo indietro almeno di 10 anni. A spiegarlo è stato Paolo Galimberti, il presidente dei giovani di Confcommercio, che appunto è a Venezia e ha presentato lo studio della Confederazione in occasione del forum, come dicevate, da studio. Tra le manovre fondamentali individuate per uscire dalla crisi, Confcommercio lancia un programma per sostenere il settore italiano dei servizi fino al 2015. Torna anche alla carica sulla detassazione dei redditi da lavoro dipendente, non più in vista della tredicesima, ma nell'immediato, detassando una mensilità e consentendo così ai lavoratori di poter contare almeno per un mese su 300-400 euro. Grazie a Silva Menetto. Adesso parliamo di infrastrutture costruite intorno ai grandi eventi, perché questo è un tema che ha riguardato l'Italia, con Genova che ha avuto le Olimpiadi, Torino i giochi invernali, e più recentemente a Milano è toccata la gestione del prossimo Expo 2015. A Vicenza oggi su questo tema si misurano le ambizioni del Nord-Est in un incontro che punta a lanciare un'altra sfida verso il 2019, come per ottenere la candidatura a capitale europea della cultura. L'editore Filberto Zovico, al microfono di nostro Gigi Donelli, è tra i primi promotori dell'iniziativa. Sentiamo. Il Nord-Est è stata in questi anni una metropoli inconsapevole, ha bisogno, come dire, di diventare una metropoli vera e propria. Perché la cultura? Perché le sfide dell'impresa, che l'impresa ha di fronte per il futuro, è quella di crescere, e di crescere soprattutto attraverso le idee. Il Veneto è in realtà uno dei più grandi laboratori culturali di questo paese. Da Venezia al Mart di Rovereto, dall'Arena di Verona fino a Trieste, la cultura mitteleuropea, il Nord-Est è un brulicare di attività culturale. Il Nord-Est è il primo territorio per consumo di libri, di cinema e di tutte delle mostre. È la narrazione del Nord-Est che bisogna modificare. E poi infrastrutture, perché sono così importanti? Perché il Nord-Est è isolato, è una metropoli appunto inconsapevole, ha bisogno dei collegamenti, ha bisogno di mettere in rete le proprie università, ha bisogno di essere la porta per il paese verso l'est, e oggi la porta del paese è bloccata a Treviglio perché l'alta velocità si ferma lì. C'è bisogno di arrivare a Trieste e soprattutto all'est, anche con l'alta velocità. Nasce oggi un nuovo quotidiano, Il Fatto. Sarà in edicola il prossimo 23 settembre il nuovo giornale diretto da Antonio Padellaro. Si chiamerà Il Fatto Quotidiano e, a detta dello stesso direttore, sarà svincolato dai poteri forti dell'editoria e dalle logiche di partito. Un giornale che non si reggerà su alcun tipo di finanziamento pubblico, ma su tre tipi di azionisti: editori puri, giornalisti e pubblico, ognuno dei quali non potrà superare una determinata quota di capitale. A proposito invece della linea editoriale, sentiamo il direttore Padellaro. La nostra linea politica sarà la Costituzione italiana, che non è rispettata, che non è applicata e spesso è anche dimenticata. Andremo alla scoperta di dei cosiddetti poteri forti, o meglio poteri opachi, direi, perché sono poteri ma non si fanno vedere. 16 pagine tutte a colori, sulle quali scriveranno firme illustri come Marco Travaglio, Furio Colombo, Luca Telese, Oliviero Beo, Peter Gomez, per un quotidiano che ancora prima di uscire ha già fatto registrare 27.000 abbonamenti. Savino Gallo, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo allo sport. Oggi in primo piano troviamo a Genova il tennis, perché è scattata la sfida tra Italia e Svizzera che vale l'accesso alla fase mondiale, cioè la Serie A della Coppa Davis. In campo per il primo singolare il nostro numero 1 Andreas Seppi contro il numero 2 elvetico Stanislas Wawrinka. Il punteggio però vede in svantaggio l'azzurro, 6-4 nel primo set, il risultato parziale. A seguire l'atteso esordio di Roger Federer in Italia, il miglior giocatore al mondo, opposto all'azzurro Simone Bolelli, che torna in nazionale dopo un anno di assenza. E invece per quanto riguarda il nuoto, da questa mattina è ufficiale, dopo 8 mesi lontano dalle vasche, Laure Marandou si ritira. La decisione ha radici antiche. Maggio 2007, all'epoca la Manadou aveva tutto: fidanzato italiano Luca Marin, palmarès invidiabile di medaglie e record, media e pubblico ai suoi piedi, sponsor per oltre 2 milioni. E invece, come ha raccontato lei stessa in un'intervista alle Parisienne, è proprio in quel momento che la nuotatrice più forte che la Francia abbia mai avuto capisce di aver perso il piacere di nuotare. Non c'era più la magia, dice oggi la Manadou. Poi la rottura con il suo tecnico di fiducia, Lucas, e con Marin, il fallimento ai giochi di Pechino e la decisione 8 mesi fa di prendersi una pausa diventata addio definitivo. Non sopporto più la pressione mediatica, poi oggi mi godo la vita come non ho mai fatto, ha detto la Manadou. Federica Pellegrini, la sua grande rivale, già qualche settimana fa ai microfoni di A Bordo Campo aveva capito che la francese non sarebbe più tornata all'attività agonistica. Beh, penso che comunque lei adesso non abbia bisogno di consigli, forse l'anno scorso sì, perché non sapeva ancora bene cosa fare, però adesso, sentendo anche le nuove news, sembra che lei non voglia proprio rientrare in vasca, quindi posso solo fargli un bocca al lupo per la sua vita futura. Oggi, a 23 anni, la Manadou potrebbe lanciarsi nel cinema o partecipare alla versione francese dell'Isola dei Famosi, ma il progetto più importante sarebbe quello di riprendere a studiare, il suo vero grande rimpianto da cui ripartire per una vita finalmente normale. Massimo Di Scienza, Gere 24, Il Sole 24 Ore. 13:29 minuti, è tutto. Alessio Maurizio in studio ha curato questa edizione con il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. Adesso arriva Buongiorno America con Stefano Pistolini. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.